Buongiorno, pure per oggi ricominciamo. Se c'hai mezza tacca, rifatte sta placca. Se attendi un minutino, au, sei ricaricato il cammino. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Ricarica va. Ciao, sono Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Cornetto e cappuccino e poi via con Gigi D'Agostino. Sì. Antonio da Rocca Imperiale. Bella questa cosa qua, eh. Precisa, sì. Vai, G. Oh. È il cammino del Gigi D'Agostino. Oh. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Volete scrivermi? 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Un attimo di attenzione, dobbiamo cambiare canzone. Sono Alice da Torino. Vorrei dedicare Amore Elettronico a Giuseppe con tutto l'amore che posso, perché senza di lui il mio cammino non sarebbe mai cominciato. Yeah.

Musical Mental. Gigi D'Agostino. Musical Mental. Un DJ con le palle. Le dediche per il cammino di Gigi D'Agostino devono avere il mittente, il destinatario e il tuo pensierino. Quindi, attenzione, non sbagliare l'operazione. E come disse Amleto, formula la dedica in modo completo. Capito come? Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Appiccia a sta radio o t'arriva in destro. Alle ore 18 sono il maestro. Rossella da Palermo, per te, Gigi. Perché la musica è vita. Vivi. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Sono Paride da Brescia. Dedica Per me amore a Elena Campana. Dille che le voglio davvero bene e che è la ragazza più speciale che abbia mai conosciuto. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci, sentire quel pianto e una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani. solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Forse non capirlo. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Sono Cesare. Volevo mandare un bacione alla mia migliore amica Sara e dirle che è la cosa più importante della mia vita. Gigi, ti chiedo troppo se ti chiedo di mettere The Riddle? E basta chiedere, io sono qua apposta. Gigi ha scelto la versione originale. Oh già già. Volevo dedicare The Riddle a Paolo, perché mi ricorda i momenti che abbiamo passato insieme quest'estate. Un bacio. Alessandra da Torino. I've got two strong arms, blessing the Babylon time, to carry untried for sins and false alarms. So to America the great, wise men say, near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. Io gioco. Con la musica. Mi diverto. Con la musica. Gioco. Gioco. Con la musica. Gioco. Gioco. Con la musica. Gioco. Eternamente. Eternamente. Il cammino.

Telefono di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 333-64-67-662. Capito come? Sento, non ho tempo, mi chiudo nell'armadio e ascolto la mia radio. E se lei poi urla perché sente che non sento, la chiudo nell'armadio ma esco con la mia radio. Vorrei ascoltare quel capolavoro di Elisir. È vero, è vero. In ricordo dei miei felici tempi d'oro. Grazie. Raimondo da Biella. Da Virgi di Saronno a Silvia. Non so se restare sveglio o continuare a pensarti. Oppure addormentarmi con la speranza di poterti sognare. Elisir. Commenta proprio. DJ Ale da Saluzzo, vorrei dedicare Again Remix a Diego di Bergamo. You let me down so many times, I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. Vorrei tanto dedicare semplicemente a Laura per vivere quella dolce agonia. Ti voglio semplicemente bene, Lisa. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. We'll be right back. e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato 18 novembre alla discoteca Roncaccio, Bizzarrone, Como. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Cucciolo, che senza di lui non posso più stare. Ti prego, torna da me. Sono pazza di te. La tua piccola dalla Sicilia. Zio Gigi, metti un bellissimo lento. Ancora tu non hai. sai perché vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi, vorrei, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sommaino. Volevo dedicare Gigi Slav a Vale, Ivana e Ilaria. Ci vediamo il 18 a Ronca. E questo è chiaro. Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! Impariamo dai nostri sbagli a non sbagliare più. Barbara da Torino. Manda lo sbaglio, perché ne ho appena fatto uno. Tipo? Non ho detto alla ragazza che mi piace, che la amo. Edo da Rivoli. Sono Luana e vorrei dedicare lo sbaglio a mia sorella Vanessa, da Villalba. Volevo dedicare lo sbaglio al mio Massimo e al nostro cucciolo in arrivo, Verusca. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Beh, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando ci sono meglio, non c'è canzone senza lo sbaglio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Con i tuoi sogni. Sono Giuseppe da Sciacca. Toccando le nuvole. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Sentiamo domani, grazie a tutti.